Benvenuti qui su Nottetempo Blog, io sono Livia Napolitano, il nostro progetto divulgativo e partecipativo nato in collaborazione con Radio Libriamoci Web continua a crescere. Siamo una sorta di radio blog per una libera circolazione delle idee e della produzione indipendente. Le nostre on the road continuano ad invadere il web e oggi inauguriamo la rubrica Fuori dal Buio per incuriosire sugli eventi, sugli incontri che appunto facciamo nel nostro viaggio sulla strada. E come potevamo inaugurare la rubrica Fuori dal Buio se non con un'immagine di luce e la visione della luce? In questo primo incontro la visione di luce che ci interessa è quella di Fabio Giovinazzo, regista e fotografo già conosciuto ai microfoni di Radio Libriamoci Web, che ci presenterà la sua mostra Icone Urbane, visibile a Genova Palazzo Rosso dal 3 aprile al 3 maggio. Buon ascolto! Allora, la mostra si chiama Icone Urbane ed è legata al mio modo di vedere la luce, seguendo tre filoni diversi, che sono il filone legato alla natura, quindi materia organica vegetale che viene fuori dalle spaccature del cemento, poi il filone legato all'architettura, quindi spazi architettonici invasi dalla luce, e poi la luce quando sfiora spazi urbani senza una precisa caratterizzazione. Si passa dalle navi che passano sul mare, alle macchine che sfrecciano sulla strada, a una luce che può venire fuori da una finestra, al televisore, e quindi seguendo questi tre modi diversi di vedere la luce ho realizzato queste fotografie, molte delle quali saranno esposte in questi spazi messi a disposizione da Palazzo Rosso a Genova, esatto. Quindi l'inaugurazione ci sarà il 2 aprile e poi la mostra ufficiale dal 3 aprile al 3 maggio. E principalmente le fotografie ritraggono Genova, per comunque la città dove adesso comunque vivo e lavoro principalmente, però ci sono anche alcune fotografie che ho scattato fuori da questa città. Milano, Torino e Roma sono le città principali che verranno rappresentate. Genova farà la parte un po' da leone, perché comunque il materiale che ho a disposizione è più vasto, però cominciano a farsi vedere anche fotografie che ho scattato fuori da Genova. Penso alla zona industriale di Milano, penso alla Torino, alla Roma cinematografica. Attraverso questo modo di vedere la luce vedo anche me stesso. In genere quando si parla di luce si tende a intendere il sole e spazi molto illuminati, però nel buio c'è sempre un po' di luce, per come la intendo io. Quando ho fotografato gli spazi naturali qui a Genova, ho fotografato delle strade percorse da alberi a malapena illuminate, queste strade o da lampioni, oppure mi ricordo anche un albero che era leggermente illuminato da una finestra che stava lontano in alto alla sua sinistra, e quindi creava tutto l'ambiente era molto buio, però in quel momento, in quello spazio, c'era questa luce che colpiva l'albero da un'angolazione molto particolare, che mi ha permesso di scattare una fotografia a mio parere molto interessante. Quindi ero immerso nel buio io, ma il mio soggetto della foto era malapena illuminato, quindi c'è sempre un po' di luce, perché mi piace molto indagare sul dualismo luce e ombra, che appartiene anche al genere umano. Non ci sono, noi stessi abbiamo comunque momenti di luce e poi momenti di ombra che si sovrappongono, si intervallano, quindi fotografare la realtà che mi circonda è importante anche per conoscere me stesso, perché è chiaro che andando a fare fotografie di notte in qualche modo è come se facessi venire fuori il mio lato oscuro. Sicuramente, per come sono fatto io, in un momento di assoluta serenità non penso di andare a fotografare le strade di notte, lì ci vado solamente quando in quel momento sono più travolto dall'ombra, dall'oscurità. La fotografia che ho scattato al Duomo di Milano invece è stata una fotografia che ho scattato in una giornata al tramonto, comunque c'era gente, era si era venuto a creare una realtà molto turistica. Io stesso ero mentalmente e fisicamente idoneo all'azione, e quindi, e sicuramente la fotografia positiva, per quanto può servire utilizzare questo termine. E quindi, ripeto, fotografare, ma un po' come fare le riprese per i miei film, è legato al mio stato interiore, è un modo per conoscere me stesso. Mi esprimo e allo stesso tempo conosco me stesso. Andando a vedere questa mostra fotografica si può fare un'idea di come sono fatto io, perché si passa da delle luci che sembrano dei scarabocchi, e quindi sono le luci collegate allo spazio urbano, non so, automobilistico, sì, e che quindi sono luci, non sono riconducibili a una sorgente luminosa, sono luci che sembrano proprio dei scarabocchi neri su carta. Si passa poi a un palazzo ripreso da un'angolazione particolare attraverso la quale viene fuori una certa inquietudine, e si passa all'albero che può essere a malapena illuminato, giusto per creare un'atmosfera fiabesca. Mi ricordo un albero che ho fotografato, e la fotografia che è venuta fuori è molto riconducibile, a mio parere, al bosco delle fiabe, come lo intendo io. Vedendo quella fotografia mi viene in mente la corsa di Biancaneve quando fugge dopo essersi salvata dal cacciatore che voleva ucciderla. Beh, il cacciatore la grazia, lei comunque fugge nel bosco, e tutti questi rami, tronchi che vede contro di lei. Mi sembrano degli artigli di esseri malvagi che vogliono catturarla, prenderla e farle del male. O così come al bosco in cui si perdono Hansel e Gretel, in questa fiaba, e poi la casetta che vedono in lontananza, questa casetta che all'apparenza è una casetta angelica, perché comunque è fatta di dolci, e il dolce quindi è riconducibile al positivo, dentro però abitata da una strega che vuole schiavizzarli e mangiarli. E questo albero, così come anche un altro fotografato, ricordano molto magari l'artiglio di una strega, oppure un albero che si para davanti a Biancaneve che cerca di fuggire, ma anche Alice nel Paese delle Meraviglie quando lei si perde nel bosco che c'è in questo paese incantato. E allora anche lì tutte queste figure che lo abitano sembrano esseri malvagi, che poi in realtà non sono malvagi, perché poi vanno anche a soccorrere la stessa Alice. E quindi è un gioco di apparenza, di sembianze, di essere, di non essere. Mi piace molto giocare sulla realtà delle cose, che può anche essere fantastica. Quello che è, quello che non è, quello che crediamo di vedere, che poi non è vero, perché chi l'ha detto che nel buio si cela il malvagio? A me piace anche quando il malvagio si cela nella luce. Mi ricordo un film che mi ha colpito molto, che è Non aprite quella porta, di Tobe Hooper, un film molto malsano, perché l'azione malvagia si svolge nell'assolato stato americano, in Texas, quindi uno stato molto assolato, e gli omicidi, la malvagità viene fuori soprattutto in quell'ambiente, non dal buio. Così come rimane impresso che Alice, nel Paese delle Meraviglie, Alice si perde nel bosco, vede questi occhi che spuntano fuori dal buio, che sembrano voglio fargli del male. Poi quando Alice cade e piange, questi occhi si rivelano appartenere a creature del bosco che vanno quasi a soccorrerla. Quindi non è detto che nel buio si deve celare il malvagio, perché può essere anche il contrario, anzi mi incuriosisce di più il contrario, cioè la malvagità che si svolge sotto la luce del giorno. Quindi il mio modo di intendere la luce è anche questo, fare luce su questo aspetto. No, luce, buono, buio, cattivo. Sì, può essere così, ma può anche essere il contrario. Molte violenze che succedono nei giorni nostri avvengono in famiglia, dove dovrebbe esserci la luce, e non, invece c'è l'oscurità. Quindi è un dualismo che mi interessa molto, che poi è il dualismo anche che sento dentro di me, questa luce, questa ombra che si mangiano a vicenda e che poi mi spingono ad agire come agisco quando faccio fotografie e quando faccio le riprese cinematografiche. Quindi questa mostra fotografica, Icone Urbane, è molto legata a questo mio modo di vedere gli spazi cittadini, Genova non solo, attraverso il modo di essere, di vedere me stesso. Quindi fotografo la realtà che mi circonda, ma è una fotografia che faccio dentro di me. E quindi le persone vedendo queste fotografie possono farsi un'idea di quello, di come sono fatto io. E quindi questo è un'indagine che mi incuriosisce molto, che adesso investe la fotografia e i film, però magari in futuro potrebbe investire altre forme, d'arte, non lo so, in questo momento comunque mi concentro sulla fotografia e sul cinema.